24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Eccoci qui, sono le 6:34 minuti, altro che passerotti e tacchini. Altro che consigli del presidente del consiglio. But please relax. Ma che relax, qui viene giù tutto, sta crollando tutto. Noi almeno una cosa la apriamo, la tiriamo su, e la saracinesca del nostro bar con Nicole Minetti che offre il caffè, come sempre. Caffè volentieri a tutti quanti. Intanto lo offriamo a Vladimir Luxuria, ben ritrovata, eccoci qua. Grazie. Qua viene giù tutto, Vladimir, viene giù tutto, crolla tutto, il governo. Dove oggi i giornali, a parte che sembra essere ritornati nel 94, Berlusconi scende in campo, lo strappo di Berlusconi. Cioè, ecco, Monti a un passo dalla crisi, quindi si capisce che siamo nel 2012. Qua viene giù tutto, Vladimir Luxuria, pronto a candidarsi? Ci sono posti in Parlamento? Se... No, mi candido. Perché? Non mi candido, assolutamente, l'ho già detto, non mi candido. Non mi candido, faccio altro. Mi candido e ho lo stesso entusiasmo per il ritorno di Berlusconi che hanno dimostrato le borse europee. Ah, ecco, cioè è di quelle che basta parlare, basta citare, non so, saluto anche Paolo Del Debbio, buongiorno Del Debbio. Cioè, Vladimir Luxuria è una di quelle che dice che basta dire la parola, ecco, diciamolo, Berlusconi, e lo spread due punti li guadagna, credo. Cioè, questo. Sì. Non so, così è una di quelle teorie. Vladimir Luxuria, oltre a note d'oro di intelligenza, c'è anche la preveggenza. Sì, sì. Comunque è bastata questa dichiarazione ieri ad Agorà del nostro amico Andrea Vianello, del ministro Passera, questa dichiarazione sull'ipotesi di ritorno di Berlusconi. Dal punto di vista Italia, noi come Italia dobbiamo, secondo me, dare la sensazione che l'Italia va avanti. Tutto ciò che può fare soltanto immaginare al resto del mondo, ai nostri partner, che si torna indietro, non è bene per l'Italia. Non è bene per l'Italia, guai a dirlo, scoppia il putiferio, il PDL dice non votiamo più la fiducia, Passera si dimetta, la smetta di fare il ministro, un disastro. Oggi sul Corriere della Sera c'è l'incredulità di Passera, cioè non è che parla, però nel suo entourage dicono ma io non credo proprio che le mie dichiarazioni abbiano potuto scatenare questo putiferio. Sentite anche Mario Monti come ha parlato ieri delle frasi di Passera. Singole dichiarazioni possono essere più felici, meno felici. Io stesso sono stato protagonista in questi mesi, spero anche di qualche dichiarazione felice, talora di dichiarazioni considerate infelici, e bisogna sempre considerare il contesto in cui questo si colloca. Dichiarazioni felici o infelici, la traduco io, mi sa che Vladimir Luxuria voleva dire li mortacci tua Passera, porca la miseria, più o meno così voleva dire, no? Ma non lo so se adesso anche Berlusconi dirà meglio un Passera fuori né sul tetto né in mano, non lo so, rispetto alla dichiarazione di Bersani. No, finalmente abbiamo scoperto qual è il famoso, diciamo così, brontosauro che esce dal cilindro, ho scoperto il tirannosauro che esce dal cilindro e dice che ritorna in campo. Ma io sono di poco tempo fa le dichiarazioni in cui diceva che le primarie sono un grande strumento di democrazia, che avrebbe scelto anche per il centrodestra, avrebbero scelto gli elettori del centrodestra il candidato premier. E poi invece tutto svanisce semplicemente perché, insomma, ritorna in campo, ci sono dei processi da cui difendersi, dovrà candidare una schiera di avvocati che dovranno difenderlo e che dovranno godere come lui dell'immunità parlamentare. Mi dispiace per la dignità dei parlamentari del PDL che, insomma, prima basta che poi compare lui e dice una cosa e tutti lì con le orecchie tese a scodinzolare davanti al padrone adesso Del Debbio, questa è la lettura di Vladimir Luxuria, ma cos'è? Non è legittimo che Berlusconi si candidi? Certo che però questo balletto, mi candido, non mi candido, le primarie, non le primarie, come dobbiamo leggere? Che sta succedendo Del Debbio lì nel centrodestra? Prima di tutto alle 6:38 non la forza di fare polemica, poi per secondo Berlusconi sì, avrà pensato tutto quello che ha detto Vladimir Lussuri, ma prima di tutto ha mandato il sondaggio, almeno questo sembra, e ha visto che se va lui ci pigliano un po' di più, se non ci va pigliano di meno. E questo mi sembra che in politica abbia la sua, diciamo, coerenza, insomma, i voti che si pigliano, se no che si va a fare il couverture, cioè si partecipa tanto per partecipare. E questo è un altro punto. Dopodiché, che questi parlamentari scodinzino, quell'altro invece non scodinzolano, io ne ho visti pochi che non scodinzolano, però comunque sia, saranno fatti loro, non sono fatti né miei né di Vladimir Lussuria, perché poi c'è ognuno ha la sua dignità, decideranno loro se vogliono candidarsi, se non vogliono candidarsi e cosa vogliono fare. Si può dire anche qualcosa su Passero o no? Sì. Su Passero? Come no? Insomma, ha creato uno di quei terremoti che insomma... Sì, ma lui ha detto se si torna indietro, eccetera, eccetera. È evidente, no? Che lui vuole andare avanti, che si ritiene la parte che va avanti, no? Beh, chiaro. Io gli auguro di avere una famiglia molto numerosa, perché di voti Passera piglia quelli, ecco, volevo dire solo. I voti di Passera sono i suoi figli, sì, la famiglia magari stessa, non lo so com'è, ma comunque quelli... Qualche parente anche, sì, magari. Però anche i voti almeno... Anche senza sondaggi. Che c'è, Vladimir? No, diciamo, però almeno i voti di Berlusconi nel PDL Passera li ha presi, perché comunque se questo governo è andato al governo... hanno votato la fiducia. No, questo sì, però effettivamente se Passera sì, si cambia. Io non l'avrei votato, loro l'hanno votato, e secondo me il popolo di quelli che avevano eletto Berlusconi e i suoi non l'avrebbero votato. Questa è la ragione del sud. Comunque Berlusconi è tornato in auge, allora dobbiamo rimettere quella di Crozza, perché insomma è tornato Berlusconi, ormai si parla solo di Berlusconi. Insomma, il Silvio Style sulle note del Gangnam Style. Tra l'altro, sapete cosa è successo ieri del Debbie e Luxuria? È successo anche uno psicodramma del senatore Orsi, che racconta il secolo XIX. Senatore Orsi di Savona non sapeva nulla di quello che è successo la sera prima con Berlusconi, non sapeva nulla delle dichiarazioni di Passera, ha avuto delle riunioni, è arrivato al telefonino, col telefonino parlando, quindi non ha ricevuto neanche telefonate, è entrato in aula perché doveva votare la fiducia, ha votato sì. E Gasparri gli ha detto: ma che voti sì? Ma abbiamo detto di no. E lui: ma io non sapevo nulla, ma mandatemi un SMS tante volte, no? Mi dite cosa devo votare. Non sapeva nulla. Con tutto che hanno da fare, mi mandano no, la gaff del soldato Orsi. Il soldato Orsi oggi, dai, traditore a sua insaputa, titola oggi il secolo XIX. Cioè, non sapeva neanche che era successo nelle ultime 12 ore. Più o meno. Vabbè. Un Giuda incosciente, Vladimir Lussuria. Ma è davvero così? Vedi che sono tutti soldatini. Poi non sapeva neanche cos'era successo di Berlusconi. Torno, Passera che dice no, è arrivato, ha votato sì alla fiducia in automatico. Lui, no? È così, Vladimir. Una dimostrazione che a volte ci sono delle persone che vivono in un altro mondo, che magari non si accorgono che Berlusconi è risceso in campo, che bisogna votare di no alla fiducia, magari che non si sono accorte prima che c'era una crisi, che l'hanno sempre nascosta, o che dichiarano che c'è una crisi solo quando al governo c'è un altro. Sono cose che succedono ad alcuni capi di governo, alcuni deputati. Tra l'altro lo psicodramma è andato avanti, perché a quel punto Gasparri ha detto: beh, chiamo Berlusconi e glielo dico, gli dico che è stato un equivoco, anzi guarda te lo passo, al che Franco Orsi racconta il secolo XIX, inizia a balbettare: presidente, volevo dirti che caro Orsi, sdrammatizza così Berlusconi: caro Orsi, domani ad Alfano porta la giustificazione dei tuoi genitori, così testuale. No vabbè, ma dai, è uno psicodramma del senatore Orsi, che per sbaglio vota. Immagino, no, pensa, Orsi al cospetto di Berlusconi, del debbio, lei che Berlusconi lo conosce. Mette in cute questo timore, no? Questa è bella, questa è bella. Un orso si fece agnello, insomma, sì. Potremmo dire così. In quel momento, e Orsi che ci crede e dice, continua al secolo, ci proverò presidente, ma mio padre non so se la firma, Monti non gli è mai piaciuto, magari fa anche lo spiritoso. Magari Paolo Guzzanti che faceva l'imitazione. Infatti, chissà, magari hanno chiamato qualcuno, un imitatore di Berlusconi, sì, vabbè. Aldo Moro, Berlinguer, Spadolini, Almirante, Pertini, questi erano politici. Bersani, Casini, Berlusconi, Di Pietro, saranno mica politici? Qualcuno vuole dire a Berlusconi che se siamo sull'orlo del baratro è solo esclusivamente colpa sua e che per favore torni in Kenya? Gli italiani non lavorano? Provate a telefonare al venerdì pomeriggio, ma anche la mattina in Germania e vedete quanti gli rispondono. Milan, gli italiani lavorano! Sono i politici che non fanno un cazzo tutto il giorno! Ma non ho capito perché devono essere distrutte le telefonate che ha fatto il Presidente della Repubblica Italiana solo perché il Capo dello Stato me ne fotto che è il Capo dello Stato! Complimenti al Capo dello Stato, complimenti, complimentoni! È uguale a tutto il resto della banda che c'è là a Roma. Complimenti! Non avrei mai pensato, dopo aver tanto sofferto durante il governo Berlusconi, che potesse venire un governo ancora più spregevole, sepolcri imbiancati. Quanti papponi ancora ci dobbiamo subire, visto che il Porcellum ancora resterà in vigore? Quanti porcelli dobbiamo avere al governo? Non ne possiamo più. Io sono disposta a comprarne 500 di porconi. Qualche giovane è disposto a venirmi dietro. Non so se qualcuno vuole accogliere l'invito della nostra ultima ascoltatrice, che il segretario telefonica ci ha lasciato un messaggio. Allora, siamo con Vladimir Luxuria, siamo con Paolo Del Debbio. Io vi devo fare il solito quiz del giorno, che non vada tutto a picco. Chi lo ha detto? A, Francesco Schettino, o B, Giorgio Napolitano? Del Debbio, che dice? Napolitano. Vladimir Luxuria? Napolitano. Ma ha imitato Schettino. Vabbè, sì, oggi era abbastanza facile. No, io la gaffe del traditore a sua insaputa Orsi, non ne riesco a uscire da questa immagine. No, vi voglio far commentare su qualcosa di un po' più serio. Allora, oggi è Sant'Ambrogio a Milano, tra l'altro oggi il cardinale di Milano, Scola, sarà ospite di Oscar Giannino alle 9. E ieri l'arcivescovo di Milano ha detto... contro la laicità, ha parlato contro per esempio la laicité modello francese, no? Quella che poi impone, ha detto, sono parole di Scola, impone polizze che includano contraccettivi, abortivi e procedure di sterilizzazione. Insomma, ha tuonato contro la laicità di Stato. La religione, è giusto che ci sia una necessaria aconfessionalità dello Stato, ma è contro l'idea secolare di uno Stato senza Dio. Ecco, chi è che si vuole lanciare in un commento su questo? Entrambi, ovviamente. Vorrei, certo. Del Debbio, fa bene il cardinale Scola oppure... Ma oppure... io guardi, oggi nel tempo che abbiamo, insomma, tra una laicità, diciamo, magari anche un po' estrema, che comunque va un po' limata, e un clericalismo sotterraneo e sempre presente, preferisco la prima. La prima? Sì. E beh, però questi sono, diciamo, i due estremi, voglio dire, però non credo che Scola... D'accordo, non... allora ve lo dico così, che sì, certo, io alcune cose... tipo le polizze presenti in Francia, eccetera, sono questioni, secondo me sono giacobinismi che si possono anche togliere di mezzo, però diciamo la laicità di fondo dello Stato, quella importante, che non ha estremi, per me è molto meglio di tutto il resto. Questo però l'ha detto anche Scola, non so se Vladimir Luxuria, che sicuramente ha un'ispirazione molto laica, Luxuria dice lo stesso cardinale, sia uno Stato aconfessionale, però non ha uno Stato senza Dio, non ha un'idea secolare di neutralità totale, non è un discorso... Che vuol dire lo Stato con Dio? Cioè, che vuol dire? Cioè, non uno Stato senza Dio, voglio e dire... Che non... vuol dire. Vabbè, questo poi, dire, poi lo approfondirà il Cardinal Scola con parole sicuramente più profonde delle mie, però Vladimir Luxuria che ne pensa? Penso intanto che la laicità sia un principio costituzionale e che dovremmo tutti ricordare che dovremmo vivere in un luogo di libero Stato con libera Chiesa. E purtroppo questo non accade in Italia. Più volte su tanti temi che vengono considerati eticamente sensibili sappiamo tutti che ci sono tante ingerenze, ci sono tanti politici che più che rispondere alla propria coscienza e considerarsi anche dei politici che devono guardare a tutti i cittadini indipendentemente dalle religioni di appartenenza, a volte si lasciano condizionare da credi religiosi, a tal punto che persino la legge sulla fecondazione assistita, che ha avuto il richiamo della parte della Corte Europea per i diritti umani, anche da questo governo ha fatto il ricorso su questo. Quindi credo ci vorrebbe più di laicità, e in questo momento mi manca molto invece colui che ha preceduto Scola, Martini, che invece sulla questione della laicità aveva un punto di vista molto più aperto rispetto insomma a quello a Scola. Sì, le parole di Scola sono tra l'altro che la giusta e necessaria aconfessionalità dello Stato ha finito per dissimulare sotto l'idea di neutralità il sostegno dello Stato a una visione del mondo senza Dio. Però del debito è giusto che un cardinale scusi Milan, è sempre il solito discorso. Allora, siccome poi alla fine le democrazie vanno avanti a maggioranze, no? Allora i famosi valori irrinunciabili, quelli che non si toccano, vanno bene la sera prima, poi si entra in Parlamento, si fanno delle votazioni, dopo allora se quelle votazioni vanno in un certo senso allora lo Stato è giusto, se quelle votazioni vanno in un altro senso lo Stato è sbagliato, indipendentemente da come io la pensi, se la maggioranza a un certo punto su certi principi va in una certa direzione, punto e basta, non è che c'è da stare a discutere. Certo, se la maggioranza legge dei principi costituzionali, quella è incostituzionale, ma ci pensa la Corte, ma se non legge quelli c'è poco da fare. E allora tutti questi discorsi, sì, confessionale, ma senza Dio, con Dio, sono tutti arzigogoli. La democrazia va avanti così, una Corte che controlla se va contro la Costituzione, ciò che ha deciso la maggioranza. Però io credo che l'approccio di Scola l'approccio di Scola credo che sia un approccio meramente e soprattutto religioso, cioè l'idea di un mondo senza Dio per un quando ragiona di cose dello Stato cambi cervello va bene, questa se lo tiene e buonanotte, gliela tagliamo, gliela mandiamo poi alle 9 Poi invece alle 8:30 avremo, io sono contento anche se l'abbiamo spesso criticato anche qui con Paolo Del Debbio settimana scorsa, credo, Roberto Saviano ai nostri microfoni, perché a Scampia comunque sta succedendo, sapete, l'inferno. Sapete, purtroppo devo chiudere con questa notizia, sapete quanti bambini si sono ripresentati nella scuola materna? Su 80 bambini solo 3 cioè i genitori hanno riportato solo 3 bambini nella scuola materna dove ieri è successo. Come dargli torto, Milan? Lo so, però questo è il segnale, non so, no, Vladimir, è il segnale paura, della paura, della sconfitta paura totale, è, no? Oh. La paura fa così. Però solo 3 bambini sono stati portati dai genitori nella scuola di Scampia, dove c'è stato l'ultimo omicidio di Camorra. Io vi ringrazio, devo chiudere qui. Vladimir Luxuria, grazie per essere stata con noi, grazie anche a Paolo Del Debbio, oggi in onda tra poco, anche oggi su Canale 5, sì. Sì. E poi sempre in pista. Altro Milan. Che Sant'Ambrose qua. Vabbè. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. È venerdì 7 dicembre, i titoli per il Sole 24 Ore, governo in bilico, tensione sui mercati, e tutti i quotidiani aprono su questa situazione di quasi crisi. Strappo di Berlusconi, governo in bilico per il Corriere della Sera, per La Stampa, Monti a un passo dalla crisi, stesso identico titolo su Repubblica. Il Giornale, licenziato Monti. Il Fatto Quotidiano, torna Berlusconi, scoppia il caos. Avvenire, torna Berlusconi, niente fiducia. Il Messaggero, strappo del PDL, rischio crisi. Libero, addio Monti. Il Secolo XIX, la spallata di Berlusconi. Pubblico, Berlusconi stacca la spina. Il Manifesto, farsa Italia. l'unità Berlusconi sfiducia l'Italia. Vedete che declinate in vari modi, ma il tema è quello, è la notizia politica del giorno. Tra poco vedremo. Prima però voglio raccontarvi di due notizie pizzicate qua e là. La prima dal Fatto Quotidiano a pagina 8, la classica notizia che poi bisogna dire sempre: mi raccomando, tenete bene le mani sul volante se state guidando. Qualcuno mi ha detto devi lanciare anche l'hashtag, questa cosa un po' strana per chi segue Twitter, mani sul volante. Ecco, questa è una di quelle notizie per cui vi avviso: tenete bene le mani sul volante se state guidando, non prendetelo a pugni, fatelo solo se e quando vi fermate. Il Fatto Quotidiano, pagina 8, onorevoli sprechi, appalto d'oro per rifare le poltrone. Ebbene sì, Edoardo Meligrana racconta come stia per scadere l'appalto triennale. Ogni 3 anni si rifanno tutti gli scranni del Parlamento, le poltrone, le tappezzerie, i drappi, le fodere, gli schienali. 3 milioni di euro per sistemare scranni e tappezzerie. La leva del cambiamento in Parlamento, il mal di schiena, scrive il Fatto. Con ogni probabilità il fastidioso disturbo corre a Montecitorio, tanto da costringere parlamentari a rinnovare anche quest'anno imbottiture e tappezzerie della Camera dei Deputati. Succede per la verità ogni 3 anni, vengono sostituiti tutti i tendaggi. Per cui nel suo percorso legislativo, se dura 5 anni, ogni deputato ha il privilegio di vedere almeno 2 tessuti, magari dello stesso colore, sempre che non si ricorra a elezioni anticipate, ovviamente. Costo previsto del capitolato 2.925.000 euro, IVA esclusa, dunque quasi 3 milioni. Nel prezzo devono essere compresi rivestimenti di strutture provvisorie con tessuto, moquette, servizio di lavaggio di parati e tendaggi, fornitura e posa in opera di opere compiute di falegnameria, tappezzeria e opere vetrarie. Eccolo qui, soprattutto gli schienali e le sedute delle poltrone che compongono l'illustre emiciclo. L'appalto scade il 14 dicembre, scrive il Fatto, in realtà nessuno ne parla volentieri se non sotto richiesta scritta da inoltrare ai competenti uffici, anche se alcuni rumors raccontano già di ditte già certe dell'assegnazione. L'ufficio stampa di Montecitorio, Giuseppe Leone, è sicuro, non può essere così, le scadenze degli appalti e le assegnazioni vengono riportate sul sito della Camera. Sta di fatto che si rifanno le poltrone e qui si può giocare, non vogliono mollare la poltrona, se la rifoderano, vabbè, insomma, solite battute, mani sul volante come sempre. Una notizia invece che ho trovato sul Corriere della Sera interessante è sulle sanzioni che l'Unione Europea ci rifila, non solo a noi per la verità, ma noi italiani siamo tra i più discoli della scuola Europa, Sentite qui a pagina 31 del Corriere della Sera Luigi Offeddu: dallo smog alle galline ovaiole, ecco le tante multe dell'Unione Europea all'Italia. E sono sanzioni milionarie che arrivano attraverso una formula infernale: PG uguale SBP per CG per CD per N, cioè che sembra una roba diabolica, ma è invece una base matematica su cui la Commissione Europea calcola le multe da appioppare ai vari stati quando violano questa o quella normativa comunitaria. A ogni discolo la sua pena. Nel caso dell'Italia, sanzione minima forfettaria di 9.920.000 euro e penalità di mora oscillante fino a 700.000 euro per ogni giorno di ritardo nel pagamento a seconda della gravità del fatto a monte. Vuol dire che, tanto per fare un esempio recente, Roma si è sentita chiedere da Bruxelles 98 milioni a titolo di rimborsi di fondi per l'agricoltura spesi indebitamente. O che ora rischia di pagare 8 milioni 854 mila più una penale di mora da 10 800 e fino a 652 mila euro al giorno per le sue norme sulle concessioni demaniali delle spiagge. Ma ci arrivano sanzioni per tutti i motivi, E nel 2011 il triste primato è proprio dell'Italia, che ha superato tutti con 135 procedure di infrazione contestate dall'Unione Europea. Perfino la Grecia fa meglio di noi, solo 123 le procedure di infrazione, lontanissimi siamo dalle virtuose Lettonia, solo 23 procedure di infrazione, o Estonia, 36. Quest'anno è andata un po' meglio rispetto al 2011, anzi assai meglio, siamo scesi infatti a 101 procedure, di cui 84 collegate a presunte violazioni del diritto dell'Unione Europea. I settori più a rischio sono l'ambiente, con 27 procedure di infrazione, la fiscalità, 12, il lavoro e gli affari sociali, 10, c'è di tutto, eh. Anche per esempio abbiamo una procedura di infrazione in materia di protezione delle galline ovaiole. Questa veramente è una procedura, o un'altra per la normativa della caccia agli uccelli, o per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini. Insomma, tutti sti ovini o galline, insomma, per colpa degli animali prendiamo delle procedure di infrazione dall'Unione Europea non indifferenti. Luigi Offeddu sul Corriere della Sera. Siamo qua, sopravvissuti alle 7:35 minuti, se ci siete ancora, siamo a continuare la lettura dei giornali con le notizie politiche del giorno, certamente questa aria di crisi di governo. Tutto è precipitato nel giro di 24 ore dopo che Berlusconi ha detto probabilmente scendo in campo, perché il paese me lo chiede, sono assediato dalle richieste, la situazione è peggiore di un anno fa. Ieri mattina il ministro Passera, ospite di Agorà su Rai 3, ha detto non è un bene per il paese, apriti cielo. Da quel momento il PDL ha detto facciamo, ci sfiliamo, non voteremo più nessun provvedimento di fiducia. Allora il PDL si sfila, governo in bilico, perché i provvedimenti ora passano, ma di fatto se si andasse a un voto di fiducia e il PDL non votasse, non c'è più la maggioranza in Parlamento per il governo Monti. Astensione sulla fiducia al Senato e alla Camera, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 3 con la cronaca di Emilia Patta. Ovviamente però è anche tutto un racconto di che cosa è successo nelle ultime 24 ore. Allora, intanto il Corriere della Sera va a raccogliere, non è un'intervista, ma sono un po' gli umori sondati del ministro Passera, responsabile dello sviluppo, a pagina 2 e 3, l'incredulità del ministro, non sono io il casus belli. Non crede di avere provocato davvero lui con le sue dichiarazioni in televisione sul ritorno in campo di Berlusconi l'astensione del PDL sul decreto della crescita, il sussulto del governo Monti, così la posizione del ministro Passera nel suo entourage più stretto riportano l'incredulità dell'ex banchiere per il crescendo delle dichiarazioni seguito dalla sua uscita televisiva. Non esitano a definire strumentale il comportamento di tanti esponenti del PDL che ieri hanno chiesto le dimissioni del ministro. Insomma, un Passera che dice ma non è possibile che una dichiarazione del genere mi abbia creato poi questo putiferio, anche perché fanno sapere nel suo entourage, scrive Antonella Baccaro sul Corriere, quelle cose lui le ha già dette al meeting di Rimini di agosto. Però è ormai chiaro che Passera pensa anche a una sua carriera politica, scrive sempre il Corriere. Ormai il ministro dichiara di voler tentare, senza però specificare in quale schieramento. Sta di fatto che in questa situazione oggi alle 10:30 Alfano, il segretario del PDL, andrà al Quirinale da Mario Monti, da Giorgio Napolitano. Detto che tra l'altro ieri Napolitano ha sentito lo stesso Alfano e lo stesso Monti al telefono. Napolitano: non vada tutto a picco, questo è il messaggio che, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 5 con Lina Palmerini, già il capo dello Stato vuole lanciare, cioè condurre la legislazione in porto con una navigazione possibilmente tranquilla e concordando con le forze politiche l'approvazione delle leggi più importanti per poi andare al voto i primi di marzo. Questo sarebbe l'obiettivo del capo del Quirinale, che dice appunto il paese non si può lasciare in una crisi incontrollata lasciando andare a picco ciò che non deve andare a picco. In questa situazione di grande incertezza e confusione c'è anche uno psicodramma vero e proprio, l'abbiamo raccontato un po' in apertura alle 6:30 nel nostro Bar in Onda, uno psicodramma che ha colto il senatore Orsi del Popolo della Libertà e che oggi il Secolo XIX racconta a pagina 3. Cosa ha combinato il senatore Orsi? Il senatore Orsi praticamente mercoledì sera non ha seguito le agenzie, non ha avuto notizie, è andato a letto senza sapere che Berlusconi aveva detto probabilmente scendo in campo. Al mattino ieri non ha visto le agenzie dopo la dichiarazione di Passera ad Agorà. Insomma, è arrivato al Senato con il cellulare all'orecchio, dunque con il telefono impegnato, per cui non sono riusciti a contattarlo per dirgli guarda che abbiamo deciso di votare contro la fiducia. Lui è entrato in fretta e furia all'ultimo momento e ha votato la fiducia. La gaffe del soldato Orsi, traditore a sua insaputa. Non lo avvertono e lui vota la fiducia. Bruno Lugaro, a pagina 3 del Secolo XIX, che gli si è avvicinato Gasparri, capogruppo, e gli fa «Ma che fai? Hai votato sì alla fiducia?» E lui «Ma io non sapevo nulla! Ma cavolo, ma almeno un SMS potevate mandarmelo!» Eccolo qui il senatore Orsi. Al che poi lo psicodramma continua, perché un'ora dopo Orsi richiama Gasparri e dice «Per favore, di al presidente Berlusconi che io ho fatto un errore, ma non volevo votare». E Gasparri, che è con Berlusconi, dice guarda te lo passo. Al che, racconta il Secolo, inizia il soldato Orsi a balbettare: presidente, io non volevo votare la fiducia. E il cavaliere lo interrompe così: caro Orsi, domani porta ad Alfano la giustificazione firmata dai tuoi genitori. E insomma, e finisce questo psicodramma del senatore Orsi, che per sbaglio ha votato la fiducia. Non sapeva nulla di quello che era successo nelle ultime 12 ore, più o meno, quando ha votato. Vabbè, i retroscena continuano ovviamente su Repubblica. Claudio Tito racconta sia la posizione di Monti sia la posizione di Berlusconi. La posizione di Monti è questa, secondo Tito: se vogliono la crisi ci sfiducino, si assumono la responsabilità di far cadere il governo e far schizzare lo spread. Così Mario Monti edifica l'ultima linea Maginot del suo governo. Questa è la posizione, ovviamente è un retroscena, dunque bisogna attribuirla a Mario Monti, ma chissà se le ha dette veramente queste parole. Però Claudio Tito racconta: è così, avete visto anche quanti insulti. Questa sarebbe la posizione di Mario Monti, cioè molto sfiduciato, molto deluso dalla posizione del Popolo della Libertà. Dall'altra parte un Silvio Berlusconi che dice: alla Camera Monti non arriva a 316 voti. Un anno fa mi aveva detto che non si può governare se non si hanno 316 deputati. Ecco, allora Monti non può governare. Questa è la posizione di Berlusconi, il sillogismo: visto che non ce li avevo io un anno fa, anche lui non può governare. E dove va a finire però questa situazione nessuno bene lo sa. Certo, il Popolo della Libertà si è in gran parte ricompattato, a parte alcuni, tra questi soprattutto l'ex ministro degli esteri Franco Frattini, che ha detto invece in aula io voto la fiducia, altri 3 o 4 o 5 o 6. C'è anche un altro dramma vero e proprio dell'onorevole Crosetto, non so se avete visto il filmato ieri registrato, abbandonato direttamente gli studi di Omnibus alla 7 ieri mattina, colto di sorpresa da questa novità dell'ultimo momento di Berlusconi, anche commosso, no? Ha detto con la voce: non so più, mi sono rotto, io non so più che dire, non so più che fare, sono qui del Popolo della Libertà ma non so più che cosa dire. Ha preso, si è tolto il microfono e se n'è andato. Quindi sta succedendo davvero di tutto in queste ultime 24 ore. Intanto Monti in qualche modo ha rimbrottato pubblicamente il suo ministro Corrado Passera per la dichiarazione che ha fatto, perché quando Monti ieri in conferenza stampa, come ricorda il Corriere a pagina 5, dice: beh, a tutti capita una battuta più o meno felice, anche a me sono capitate in quest'anno, è riferita alla dichiarazione di Passera. È un modo, per chi conosce ormai il modo di esprimersi sempre molto pacato, sempre sopra le righe, di Mario Monti, è un rimbrotto vero e proprio, come dire: ma Passera, ma che diavolo sei andato a dire? Che ha dato il pretesto, il là, vedetela come volete, per un putiferio politico del genere. Certo, i giornali ormai raccontano quelli che sono gli entusiasti del ritorno di Berlusconi, che stanno con lui in tutto e per tutto, tra tutti l'onorevole Micaela Biancofiore, che si è espressa così con il ritorno di Berlusconi: Fiat Lux! Ecco, un commento sobrio. Molti invece che sono un po' in attesa di capire, alcuni per la verità meno, tra questi anche appunto l'onorevole Frattini, ma anche Beppe Pisanu, che dicono: no, lasciamo, non ci piace seguire questa questa linea di Berlusconi. Il giornale assicura Berlusconi rilancia il Popolo della Libertà, possiamo arrivare al 30%. E le primarie? Beh, le primarie ormai è chiaro, Alfano ieri ancora l'ha detto, se è definitivo o poi non si sa, le primarie del centrodestra davvero non ci saranno. Che succede invece in Parlamento a questo punto? Beh, qui è utile il Sole 24 Ore. L'ingorgone legislativo di cui abbiamo parlato, di cui parliamo da giorni, ora diventa ancora più un ingorgo perché c'è l'incertezza sulla tenuta parlamentare. Roberto Turno ne parla a pagina 12. La legge di stabilità è al riparo, ma il rischio è la paralisi per gli altri provvedimenti. Il panettone con la legge di stabilità e col decreto sviluppo, forse, racconta Roberto Turno. Col taglio delle province, che però già traballava prima, figuriamoci adesso, deve essere convertito in decreto entro il 5 gennaio del 2013. Anche il decreto legge salva Ilva galleggia nella tempesta, poi poco altro, addirittura forse nient'altro si riuscirà ad approvare, con leggi da fare che rischiano pericolosamente di finire sul binario morto, anche se poco hanno a che fare con gli interessi politici di parte, ma che incidono su scadenze e impegni istituzionali di bilancio inderogabili, a cominciare dall'attuazione della legge sul pareggio di bilancio, ma anche la delega fiscale. Tutto questo rischia di saltare, perché chiaramente sarà un finale di legislatura molto convulso, almeno a giudicare da quello che è successo tra l'altro ieri e ieri, e quindi il Vietnam parlamentare si è materializzato, il grande ingorgo si è trasformato in una delicatissima paralisi di fine legislatura. Quindi niente si muove alla Camera, racconta il Sole 24 Ore, tranne il cambio dei drappeggi e degli scranni a 3 milioni di euro. In tutto questo e in tutto questo ingorgo e situazione difficile dal punto di vista politico, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legge sull'incandidabilità delle persone condannate. E non è che questo discorso sia escluso, secondo molti commentatori, da quello che sta succedendo, cioè, anzi, per alcuni commentatori tutto questo trambusto elettorale, anche dal punto di vista del Popolo della Libertà, era legato al fatto che il Consiglio dei Ministri stava approvando questa cosa che avrebbe creato qualche problema all'interno del Popolo della Libertà. In realtà, su questo decreto sull'incandidabilità, cioè si è stabilito che non si possono candidare le persone a deputato, senatori, europarlamentare, membri di governo, giunte regionali, comunali e provinciali, per chi riceve una condanna definitiva, dunque 3 gradi di giudizio, a pene superiori a 2 anni di carcere per reati contro la pubblica amministrazione, ma anche per mafia, terrorismo, traffico di esseri umani e altri crimini gravi. Un divieto che vale che condanne, per condanne anche ricevute nel passato, ma non al termine di un patteggiamento. Attenzione a questa parentesi, ma non al termine di un patteggiamento. Qual è il risultato effettivo, scrive il Corriere della Sera, di questo provvedimento calato per esempio sull'attuale Parlamento? Marcello Dell'Utri, che ha una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi, dunque più di 2 anni, dovrebbe essere fuori. No, non è fuori. È candidabile perché? Perché quella condanna arrivò al termine di un patteggiamento. Eccola lì la parentesi. Condanna superiore a 2 anni, ma non se è al termine di un patteggiamento. Quindi Dell'Utri, che ha una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi, è un esempio preso dal Corriere, ma patteggiata, si può candidare. Dall'altra parte ha una condanna in appello per associazione esterna alla mafia, è stata annullata dalla Cassazione, rinviata all'appello a 7 anni, e dunque lì non è definitiva, per cui candidabilissimo. Così come è candidabile anche Marcello De Angelis, PDL, attualmente ha una pena a 5 anni e 6 mesi, ma risale all'89 e dunque è stato riabilitato e dunque non c'è problema. Tra i condannati in via definitiva si salva anche il PDL Aldo Brancher, perché è condannato solo a 2 anni. 2 anni, la pena deve essere superiore a 2 anni, quindi 2 anni e un giorno. Insomma, quasi tutti salvi, scrive il Corriere, se si applicasse l'attuale decreto legge sull'incandidabilità agli attuali condannati in Parlamento. Passiamo alla cronaca. È una notizia triste quello che fanno notare tutti i giornali. Sapete quanti bimbi, su 80 bimbi, sono tornati nella scuola materna di Scampia, dove c'è stato un omicidio di camorra 2 giorni fa? Su 80 bimbi, solo i genitori di 3 bimbi li hanno riportati a scuola. Nelle aule deserte dell'asilo di Scampia, troppa paura, questa non è più vita. solo 3 bimbi su 80 all'indomani dell'omicidio. Ieri tra l'altro c'è stato un altro delitto di camorra tra la folla. Questo è il titolo per esempio di Repubblica di Concita Sannino, ma anche il Corriere della Sera, Marco Imarisio con l'inviato: scuole di Scampia sotto protezione, martedì ci sarà la protesta delle luci accese, cioè tutte le luci verranno accese e tenute accese anche di notte per simboleggiare in qualche modo una presenza, una sicurezza, anche una sorta di linea, lo Stato c'è, anche se in realtà non è proprio la percezione che ha la popolazione, soprattutto a Scampia. Io lo dico perché alle 8.30 avremo con noi Roberto Saviano, sarà nostro ospite dalle 8.30 alle 9 per parlare di Scampia, di Napoli e dell'attualità anche politica. Mentre voglio annunciare che anche alle 9 Oscar Giannino ospiterà l'arcivescovo di Milano, il cardinale Scola. Oggi tra l'altro è la festa patronale di Milano, Sant'Ambrogio. Nel tradizionale discorso di ieri, in questo caso del 6 dicembre, alla vigilia appunto di Sant'Ambrogio, il cardinale Scola ha parlato di laicità. No a uno Stato senza Dio, così titola per esempio il Corriere della Sera. Ha attaccato molto il modello francese di laicité, e anche contro la riforma sanitaria di Obama, laddove impone, sono le parole del cardinale Scola, polizze che includano contraccettivi, abortivi e procedure di sterilizzazione. E ancora, ha detto il cardinale di Milano, l'arcivescovo di Milano, la giusta e necessaria aconfessionalità dello Stato ha finito per dissimulare sotto l'idea di neutralità il sostegno dello Stato a una visione del mondo senza Dio. Beh, di questi temi sicuramente molto profondi, al di là di quello che si può fare in una citazione di rassegna stampa, parlerà Oscar Giannino alle 9 con il cardinale Scola, per l'appunto. Ho pochissimo tempo, giusto per dare una segnalazione da Libero, che è questa: denuncia il pusher ai carabinieri ed è suo figlio. È una vicenda che magari può riguardare tanti genitori che purtroppo scoprono a un certo punto della loro vita che un figlio ha problemi con la droga. Alessandro Gonzato, in prima di Libero, denuncia il figlio sedicenne. Prima i sospetti, la paura che il figlio sedicenne frequentasse cattive compagnie e si potesse cacciare in guai seri. Poi l'altro giorno, quando il ragazzo va a scuola, va nella cameretta e questo padre trova 2 sacchetti di marijuana con 150 grammi di stupefacente all'interno di una scatola. A quel punto cosa fa? Beh, questo genitore, preso da questo dilemma, fa questo tipo di scelta. Va alla caserma dei carabinieri di Castelfranco Veneto e dice: denuncio mio figlio, consegno la droga, e in lacrime ai militari dice: mi fido di voi. Sicuramente farete il possibile per raddrizzarlo, perché siete i soli che potete farlo e conto sul vostro aiuto. Beh, è una scelta, un dilemma davvero, davvero pesante. Che fare? Affrontare prima il figlio, cercare di parlarne, oppure, come ha fatto questo genitore, andare dai carabinieri a denunciarlo? Il padre di un sedicenne scova 150 grammi di droga in cameretta e al ritorno da scuola il ragazzo trova i carabinieri ad aspettarlo. Questa è la scelta di un genitore che in Veneto, nel Trevigiano, a Castelfranco Veneto, la racconta Libero in prima pagina. Sono le 8 e 16 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, eccoci qua nuovamente in diretta. Vogliamo parlare della situazione politica davvero molto confusa, confusionaria, perché nelle ultime 24 ore è successo un po' di tutto. Prima Silvio Berlusconi che ha detto probabilmente mi candido, poi ieri la dichiarazione del ministro Passera che ha detto non penso che sia un bene per l'Italia, e da lì il PDL ha deciso di non votare più provvedimenti di fiducia alla Camera e al Senato, e oggi alle 10.30 Alfano andrà a parlare con il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Voglio salutare l'onorevole Maria Stella Gelmini, ex ministra dell'istruzione, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. Senta, e a tutti gli ascoltatori. Alfano, buongiorno. Secondo lei cosa dirà oggi e cosa dovrebbe dire al capo dello Stato? Ma innanzitutto credo che, come sempre, il segretario Alfano sarà molto rispettoso del ruolo che la Costituzione assegna in una fase complicata come questa al Presidente della Repubblica. Certo, ieri il PDL ha espresso un disagio attraverso l'astensione al voto di fiducia nei confronti del governo. Un disagio che è legato ad un giudizio politico, cioè se il primo tempo, quello del salva Italia, della messa in ordine dei conti pubblici, ha visto il governo raggiungere l'obiettivo, quel che è mancato è invece la fase propulsiva, la fase legata alla crescita, allo sviluppo del paese. D'altra parte, evidentemente credo che a breve comunque la politica sarebbe chiamata a tornare in campo, confrontandosi nelle prossime elezioni politiche sulle diverse posizioni, sulle diverse ricette per favorire l'occupazione, per aumentare i consumi, per ridurre la pressione fiscale. Ma quindi perché però tutto è precipitato nel giro di 24 ore? Cioè possiamo addebitare tutto a delle dichiarazioni del ministro Passera? No, le dichiarazioni del ministro Passera sicuramente sono state inopportune, perché il ministro Passera è un ministro tecnico che dovrebbe occuparsi, visto la delega importante che gli è stata assegnata, di sviluppo, di crescita, dell'ILVA, dei posti di lavoro. Le sue dichiarazioni relative alla discesa in campo di Silvio Berlusconi sono state improvvide e sbagliate, ma non è solo questo. Sappiamo che vi è una richiesta precisa da parte del PDL con riferimento all'Election Day, che è una richiesta che nasce dal buon senso, cioè risparmiare 100 milioni di euro in un momento di spending review, in un momento in cui chiediamo agli italiani di pagare l'IMU. Ecco, buttarli via per fare in due tornate, a breve distanza l'una dall'altra, le elezioni regionali e politiche, quando vi è una legge che prevede appunto l'accorpamento delle scadenze elettorali, ci pare una richiesta, come dire, dettata dal buon senso e dal dovere di risparmiare, di non buttare soldi in un momento così complicato. Di crisi. Però, per onorevole, su questa posizione lei lo sa che a volte i pareri discordano. Un anno fa, per esempio, quando lo chiedevano dall'altra parte di accorpare referendum e politiche, si dice lì non si poteva fare, cioè la richiesta del risparmio a volte va e viene, diciamo. Beh, però noi ci crediamo, nel senso che riteniamo che sia indispensabile in questo momento in cui non sono tempi particolarmente floridi, in cui si è tagliato molto in tutti i settori, in cui la spesa pubblica è sottoposta ad un ridimensionamento, ad una rivisitazione dei confini, proprio perché mancano le risorse. Crediamo che la nostra richiesta possa essere accolta proprio perché coincide con gli obiettivi che sono stati assegnati al governo Monti, cioè quello di risparmiare denaro e di evitare sprechi. Però il ministro Passera ha fatto un ragionamento, lei ha detto improvvido, di questo tipo: un anno fa noi siamo arrivati perché la situazione era quella che era, lo spread era quello che era, e quindi l'idea di tornare al passato, e difatti già oggi lo spread si alza, forse non è un segnale buono da dare a livello internazionale. Secondo lei cosa c'è di sbagliato in questo discorso? C'è il fatto che siamo di fronte ad una crisi e ad una speculazione che sono internazionali, e francamente la favola di attribuire la colpa a Berlusconi oggi è una favola che non regge, perché abbiamo visto bene come in questi mesi certamente il presidente Monti ha fatto un buon lavoro sul piano internazionale, ma lo spread è calato quando vi è stato un intervento forte da parte della BCE. Oggi possiamo dire in maniera oggettiva, senza essere tacciati di demagogia o di populismo, che il tema dello spread è assolutamente legato all'andamento dei mercati internazionali e al fatto che purtroppo la Banca Centrale Europea non è prestatrice di ultima istanza, non stampa moneta, e di conseguenza solo quando sono stati immessi risorse ingenti da parte della BCE lo spread si è stabilizzato. Peraltro credo anche che siamo di fronte non solo ad una crisi che è internazionale, siamo anche di fronte ad un cambiamento strutturale dell'economia, e quindi evidentemente oggi servono risposte forti sul piano della crescita, sul piano dello sviluppo. E abbiamo non a caso richiesto all'Europa di conteggiare in maniera diversa la spesa in investimenti rispetto alla spesa corrente. C'è da parte dei sindaci la stessa richiesta al governo italiano di deroga, almeno per i comuni virtuosi, al patto di stabilità. Quindi il cortocircuito sta nelle difficoltà che tutti i governi hanno nel far coincidere da un lato il rigore, ma dall'altro anche la crescita ed una possibilità di sviluppo. Le chiedo questo. Credo che sia legittimo pensare ad un ritorno in campo della politica. Ecco, Berlusconi, secondo lei, fa bene, dovrebbe dire mi ricandido? Perché lei di recente in un'intervista ha detto rinnoveremo noi, ma non mi sembra una scelta di rinnovamento la candidatura di Silvio Berlusconi. Ma se per questo non mi pare nemmeno che Bersani rappresenti una scelta di rinnovamento. Io credo che il rinnovamento Berlusconi lo abbia fatto e dimostrato anche quando era al governo, scegliendo persone giovani, persone che in molti casi avevano meno di 40 anni, e indicando anche come segretario politico Angelino Alfano. Ma perché ritengo che oggi la discesa in campo di Silvio Berlusconi sia un'opportunità? Perché purtroppo non siamo di fronte ad una ad una situazione in cui può risultare probabile la vittoria del centrodestra. Al contrario, dopo le primarie, con la vittoria di Bersani, grazie ai voti di Vendola, grazie ai voti della CGIL, quindi ad una sinistra fortemente spostata verso le estreme, ebbene oggi è molto probabile una vittoria di dell'asse Bersani-Vendola. Quindi l'unico è Berlusconi, dice, che può fermare questo asse del centrodestra. Certamente Berlusconi è la persona più adatta nel centrodestra per fare questa competizione elettorale. Noi non vogliamo assistere ad una contesa tra la sinistra e Grillo, e questo è il rischio che sta affrontando l'Italia, perché purtroppo sappiamo come il Movimento 5 Stelle sia particolarmente alto nei sondaggi, e l'Italia, con le difficoltà economiche che ha, non penso che si possa permettere né i problemi e le conflittualità interne alla coalizione che abbiamo visto durante il governo Prodi, e nemmeno francamente credo che le ricette di Grillo siano serie e adeguate al momento che però stiamo vivendo. Però lei non crede che sia una mancata opportunità? Cioè, a sinistra hanno fatto le primarie, è vero, ha vinto Bersani, però è la prima volta che si candida, però Renzi ha avuto comunque un successo di voti. Per esempio, si potevano fare le primarie nel centrodestra, comunque c'era Alfano, c'erano altre persone in campo, invece sembra quasi un ritornare a un già sentito con Silvio Berlusconi. Ma a me pare che le primarie del centro-sinistra siano state sicuramente un'opportunità di coinvolgimento e di partecipazione, dopodiché non credo abbiano risolto le conflittualità, le contraddizioni programmatiche interne al centro-sinistra, perché voglio ricordare che la ricetta di Renzi era e resta molto diversa da quella di Bersani, della CGIL, di Vendola, quindi è stato utile dal punto di vista tattico portare al voto tante persone, ma c'erano cittadini che erano favorevoli alle ricette in economia della CGIL che votavano Bersani, cittadini che hanno votato Renzi che pensavano di poter abbandonare quel modello culturale ed economico, quindi le contraddizioni restano sullo sfondo. Peraltro c'era nel centro-sinistra una forte richiesta di ricambio generazionale. Nel centro-destra devo dire che sia al partito che quando eravamo al governo, il cambio generazionale Silvio Berlusconi lo ha sempre perseguito, quindi le motivazioni nostre erano più deboli. Poi, per carità, io non sono contraria alle primarie, ma non penso che abbiano siano la panacea di tutti i mali, che risolvano il desiderio di ricambio. Ma ci sono ci anche spieghi altri modi. Politicamente il centrodestra, secondo lei, il PDL dovrebbe adesso far proprio cadere il governo Monti, cioè che vuol dire non votiamo la fiducia ai provvedimenti, però passano comunque ma con una minoranza di voti parlamentari assoluta? Cioè dovreste proprio staccare la spina, secondo lei? No, guardi, noi abbiamo già anticipato che voteremo la legge di stabilità per senso di responsabilità, perché è un provvedimento importante per il Paese, che peraltro comincia a ridurre il cuneo fiscale, ad introdurre un credito d'imposta per la ricerca. Credo che sia stato fatto un grande lavoro anche per aiutare il più possibile la famiglia, quindi quel provvedimento noi lo voteremo. Dopodiché comunque la legislatura volge a termine, poi adesso sembra che sia Berlusconi a voler far cadere il governo, in realtà sia il PD che l'UDC sanno bene che oramai si tratta semplicemente di qualche mese. Potrebbero essere utilizzati al termine in ogni caso. Potrebbero essere utilizzati questi mesi per fare delle cose. Ma noi ci auguriamo che siano utilizzati e siamo disponibili a collaborare, però chiaramente se assistiamo alla metamorfosi di un governo tecnico che assume sempre più connotati politici di una parte, francamente viene meno il presupposto patto fiduciario che lega il governo al Parlamento. E quindi su questo anche il governo dovrà dimostrare la propria terzietà, che deve durare fino al giorno in cui termina la legislatura. Non mi pare che stia succedendo questo. Riconosco a Monti la terzietà, l'interesse esclusivo per il bene del paese, mi pare che molti ministri di quel governo invece siano già ministri politici. L'ultima, mi faccio, sono lì con i voti anche del PDL. Mi faccia fare l'ultima battuta, da osservatore esterno: Bersani versus Berlusconi, non un, proprio un'idea di un'Italia che va verso il futuro o nuova, cioè, come dire, la sensazione è di un visto già visto. Certo, Bersani almeno è la prima volta che si candida a premier, ma non è certo l'uomo nuovo neanche del centro-sinistra. Bersani, Berlusconi, lei come la vede questa idea? Dipende dalla squadra che entrambi metteranno in campo. Il rinnovamento ci può essere non solo nella figura indicata come candidato alla presidenza del Consiglio, ma nella squadra che ciascuno dei due contendenti metterà in campo. Quindi dopodiché, se guardo, devo dire, alla finanza, al mondo dell'economia, ecco, non mi pare che ci sia stato anche in quegli ambiti grande rinnovamento. Insomma, siamo un paese incrostato, ovunque, ecco, questo è... Guardi, io ripeto, nel centrodestra, io da molti anni collaboro con il presidente Berlusconi, ho potuto vedere in occasioni concrete la sua attenzione e l'apertura ai giovani, tant'è che noi non abbiamo rottamatori, non abbiamo bisogno di rottamare qualcuno, perché il ricambio è sempre stato perseguito dallo stesso presidente Berlusconi, anzi semmai quando se n'è andato dal partito sono stati altri che hanno frenato il cambiamento, non certo lui. In ogni caso, questo è un paese che ha bisogno di un ricambio generazionale in tutti i settori, dalla finanza alle banche, all'economia, alla politica, e ognuno evidentemente si assume le proprie responsabilità e risponderà agli elettori del progetto di ricambio che metterà in campo. A vedere. Io intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie all'onorevole Maria Stella Gelmini, grazie, deputato del Popolo della Libertà, ex ministra dell'istruzione. Noi tra 5 minuti, dopo la pubblicità e il meteo, avremo in diretta Roberto Saviano, lo scrittore, giornalista, con noi per parlare di Scampia, Napoli, ma non solo, anche di attualità politica, se volete. Eccoci qua, ben ritrovati alle 8:34 minuti. Allora, sono molto contento che ha accettato il nostro invito e può stare con noi fino alle 9 in diretta una persona, uno scrittore, un giornalista, il cui nome e cognome è già una presentazione. Roberto Saviano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Saviano. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Partirei ovviamente da Napoli, da quello che è successo ieri. C'è stato un altro delitto di camorra e la notizia che più mi ha colpito, Saviano, è che solo 3 bambini su 80 sono stati riportati dai genitori nella scuola materna di Scampia dove si è consumato questo delitto. Fanno bene quei genitori ad avere paura a non portare i bambini a scuola? Difficile rispondere, nel senso che è ovvio che da un punto di vista, come dire, strategico-tattico, è ovvio che non può accadere più nulla in queste ore perché c'è un'alta militarizzazione proprio di quel territorio lì. Però comprendo lo smarrimento, l'ansia, il terrore, è una cosa terribile, nel senso che si tratta di un fatto anche per quelle terre abituate ad agguati, abituate a una guerra perenne da anni, è un fatto gigantesco, no? Un affiliato che era entrato nell'obiettivo di un comando che per salvarsi la vita cerca di entrare in una scuola materna, cioè qui si tratta proprio di scudi umani, nel senso poi lo hanno ammazzato poco prima che riuscisse a entrare, ma il suo obiettivo era nascondersi tra i bambini. No, è terribile. Un tempo si diceva, anche veicolando secondo me un messaggio totalmente sbagliato, come se i mafiosi avessero rispetto per la vita umana, i mafiosi rispettano donne e bambini. In realtà non è così, ma è anche un peggioramento della situazione da leggere il fatto che neppure di fronte a una scuola materna si siano fermati i killer. Una giusta riflessione, nel senso che ho ascoltato molto in queste ore l'espressione "ma dove sono finite le regole d'onore?". In realtà sono veramente fesserie, queste regole d'onore non sono mai esistite nei fatti. Infatti la camorra ha ammazzato spesso bambini, sì certo, dandosi giustificazioni del tipo che erano fette sulla traiettoria dei proiettili, ma non è così, non hanno mai rispettato queste cose. Donne sono sempre state uccise e bambini sempre ammazzati, non curandosi della loro presenza. Quindi in realtà, piuttosto che un peggioramento di questo tipo, cioè delle regole, la cosa terribile è che ogni territorio ormai è diventato a loro disposizione. Ecco, questo sino a ieri, cioè scuole o come dire, c'erano dei limiti alle battaglie militari che loro si ponevano, ma adesso anche quest'ultimo limite è stato travalicato. Visto che lei ha parlato di battaglie militari, senta Saviano, sa che qualcuno ha rilanciato l'idea dell'esercito, ci vuole l'esercito, la militarizzazione del territorio, un'idea sulla quale lei è contrario, però effettivamente sembrano proprio battaglie militari e quindi qualcuno ha l'impressione di doverle affrontare con una forza pari e contraria. Ho vissuto molte volte questo dilemma quando ci fu l'esplosione dello stragismo casalese con il gruppo Setola, arrivarono i paracadutisti, nel mondo viene affrontato così, no? La militarizzazione di aree del Messico per esempio, non è sufficiente, ecco, più che contrario non è sufficiente, e rischia di essere l'unica soluzione, quella più facile, militarizzi, blocchi le strade, le organizzazioni al massimo sospendono la loro attività. Sì, certo, si può dire si sta più tranquilli, ma per poco tempo, ed è una tranquillità appunto militare, che dall'altra parte presuppone un'organizzazione che si riassesta, che raccoglie armi, che disloca altrove il suo potere, quindi diciamo che la presenza dell'esercito è necessaria a condizione che protegga un progetto, cioè faccio un esempio, magari sostituisce la polizia che a quel punto può indagare di più sui grandi traffici, associata a delle riforme, ma così mandare come un'emergenza per qualche settimana o qualche mese davvero non è la soluzione. Senta, ma perché un ascoltatore che ci sta ascoltando magari da Bolzano, da Bologna o da Lecce dovrebbe essere interessato a ciò che succede a Scampia? Perché larga parte della ricchezza che lui incontra, della ricchezza intendo dire di un'impresa edile, di un'impresa che raccoglie rifiuti, di un'impresa di distribuzione, di un centro commerciale, può nascere da lì, anche se sta in Friuli, in Veneto, in Liguria, in Basilicata, cioè in regioni che vengono considerate non regioni mafiose. In questo senso faccio un esempio, Scampia ha una grande centralità, non solo per lo spaccio al dettaglio, questo è il vero purtroppo talento criminale di Scampia, cioè se in questo momento lei volesse arrotondare lo stipendio oppure chiudere un mutuo con della coca, cioè vendendo coca, va a Scampia e può prendere un importante quantitativo, non la dose per sé o per gli amici, un chilo, due chili, cosa che è permessa solo lì, cioè le organizzazioni criminali italiane hanno un rapporto molto complicato con le grandi quantità, cioè devi essere un mediatore, devi avere dei rapporti con dei broker, devi avere dei rapporti con degli affiliati, con dei membri dell'organizzazione per poter prendere una tale quantità da avere il tuo giro di spaccio. Non a Scampia. E perché no a Scampia? Perché si è costruita così l'organizzazione, cioè è una città, un quartiere spaccio, per cui si arriva lì e puoi chiedere un quantitativo più alto. Mettiamo che sei un infiltrato, un poliziotto, una persona che vuole, come dire, creare danno, chi verrà arrestato, chi verrà danneggiato è soltanto il pusher che sta vendendo quella cosa. Ma quindi, non la struttura quindi, che viene. Esatto, cioè perché non medi, mentre per avere quantità maggiore in un altro posto, ma anche semplicemente il casertano, quindi non bisogna andare lontanissimo, Roma, bisogna entrare in contatto con una figura dell'organizzazione più alta, e quindi se tu sei un infiltrato poi puoi mettere in difficoltà l'organizzazione. Lì no, perché lì alla fine del palazzo, cioè la casa dei Puffi, sì, e altre zone, ci sono interi palazzi che sono predisposti per la distribuzione di anche quantitativi medi. Ma lasciano trattare questo ai pezzi piccoli che comunque verrebbero. Esatto. Ecco, una considerazione che lei ha rilanciato per la verità dopo anche l'ultimo delitto di due giorni fa è questa: a questo punto, ribadisco, bisogna pensare davvero alla legalizzazione delle droghe per togliere soldi, denaro, togliere fonte di grande denaro a questa criminalità. Però è un discorso come sempre pericoloso, che si innesta anche su questioni morali, cioè come rendere legale un qualcosa che uccide, che è dannoso per la salute. Perché questa idea di legalizzare? Diciamo che il mio obiettivo negli articoli del lavoro che sto facendo in questa fase è quello di iniziare a riflettere su questo. Quindi, ancor prima, diciamo, della riflessione morale sulla legalizzazione, c'è un'urgenza, come si fa a fermare questa enorme quantità di denaro generata dal narcotraffico? E quindi l'idea, quando si è in un territorio come quello appunto di Scampia, è che se tutto questo fosse in mano allo Stato, in qualche modo, loro lì distribuiscono qualunque forma, quindi stiamo parlando dalla calabresella, quindi dalla marijuana, sino all'hashish, le pasticche, la coca e ancora l'eroina, nel senso che è un mercato che affronta tutto, cioè persino una droga diciamo in crisi come l'eroina, quella da gettare in vena e quindi non quella da sniffare che invece sta tornando, fanno tutto lì. Bene, il primo pensiero è: l'unico elemento che potrebbe togliere ogni cosa all'organizzazione, metterla in ginocchio, è evidente la legalizzazione. Mi rendo conto che apre una serie infinita di altro tipo di dibattiti, ma in questo momento quello che mi preme non è la riflessione morale, è talmente un mero calcolo economico, cioè un mero calcolo economico. Esatto. Che però le riflessioni morali lei non le ha fatte, perché ovviamente ognuno le può fare e avere un'opinione diversa su questo. Sì. Secondo lei però uno Stato non si deve interrogare anche su questo? Sì, certo che si deve interrogare. Sicuramente sarà da fare, nel senso che se si dovesse aprire il dibattito sarei il primo a entrare in queste dinamiche. Ho solo paura che in questo momento quale rischia di essere la questione. Si parte prima dalla riflessione morale e dopo dall'analisi strategica. Mi piacerebbe che si iniziasse a parlare di legalizzazione al di là del risultato, se si arriva o no, perché questo comporterebbe lo studio del potere reale delle mafie economico che parte dalle droghe in genere. Cioè avere un approccio proprio laico, a dire, cominciamo a capire se serve. Iniziare un approccio laico, esatto, alla questione. Cominciare a parlarne. Cominciare a capire se davvero potrebbe portare un'utilità dal punto di vista economico. Sì. Poi affrontare magari in un secondo piano tutte le implicazioni morali. Esatto, morali. Eccoci, con noi c'è Roberto Saviano, ancora per una decina di minuti. Devo dire che molti ci scrivono via SMS a dire no, mandate l'esercito. Saviano, questa è la risposta che molti cittadini chiedono proprio come reazione istintiva. No, ma va bene, il problema è che il rischio, come sempre è accaduto, è che ci si fermi lì. L'esercito dovrebbe essere l'inizio, cioè una ripresa del territorio militare, perché così si trasforma il territorio. Invece se ci si ferma lì, come dire, davvero non cambia nulla. Non cambia nulla. Senta, volevamo parlare anche un po' di politica, perché è un momento, come dire, un po' convulso, un po' confuso. Intanto lo chiedono tutti periodicamente, allora lo devo chiedere anch'io. Ma Roberto Saviano ha mai pensato di scendere in politica? Magari non come candidato, premier, cioè, ma in qualche forma, in qualche lista, in qualche... Scenderà mai o scende in campo in politica? Sa, anche l'espressione scendere mi ha molto inquietato, nel senso che l'idea... Avevo forse l'idea un po' intellettuale della politica, quindi al massimo si sale in politica, e non sento di avere la forza di salire in politica, nel senso che sento sempre di non essere capace, ecco, a fare una cosa del genere. In questo momento, sempre dal punto di vista dei temi che studio, affronto e che sento nella carne, forse ne sono persino ossessionato, è che non mi aspettavo una tale irresponsabilità in un momento così delicato da parte del PDL, e parlo, attenzione, delicato non nel senso della crisi economica, è delicato proprio per i temi che stiamo affrontando questa mattina, cioè la guerra a Napoli, la chiusura del processo infinito a Milano, una rivoluzione purtroppo passata inosservata, ma una vera e propria rivoluzione della storia italiana, della storia della battaglia criminale. La sentenza contro l'Andrangheta che c'è stata in Lombardia, 41 condannati per l'inchiesta della PM Boccassini. Esatto. E in questo momento lei dice è irresponsabile. No, è una cosa irresponsabile, anzi, io, a costo di sembrare, come dire, persino ridicolo, ma è davvero un'irresponsabilità criminale. Con criminale intendo dire che non si sta guardando a questi poteri, che sicuramente ne approfittano, fosse anche che la luce si è spenta nell'immediato. Accesa sulla vicenda della scuola materna, accesa sulla vicenda della chiusura del processo, che ha dimostrato che le organizzazioni criminali, cioè in questo caso l'Andrangheta, avevano messo le mani sull'elite, cioè della sanità del nord Italia, quindi sul meglio della sanità del nord Italia. Ecco, purtroppo c'è da dire che le battaglie alle organizzazioni criminali si fanno quando ci sono omicidi eccellenti. C'era una frase di Falcone terribile che diceva: se davvero si vuol fare lotta alla mafia, devono esserci due omicidi eccellenti l'anno, perché altrimenti tutto il mondo mediatico lo tiene alla cronaca giudiziaria, alla pagina locale, i cronisti locali, e si è tutti soli in questa battaglia. Bene, con questo terribile omicidio c'era ritornata una centralità. Fosse anche soltanto questo doveva creare una responsabilità. Invece se ne sono per l'ennesima volta fregati, ma tutti se ne sono fregati, perché a parlare di questo argomento nessuno l'ha voluto fare, non l'ha voluto fare il sindaco di Napoli, che ieri è andato in televisione a parlare di altro, e non hanno avuto responsabilità, diciamo, tutti in qualche modo. Ci avrebbe voluto paginate e paginate di discorsi su quello che è successo, e non di parlare della solita politica, cade non cade il governo, insomma. Anche dal mio punto di vista, e naturalmente questa cosa è stata, diciamo, dolorosa, che... e quindi, diciamo, la politica personalmente in questo momento la vedo con sofferenza. Con sofferenza. Anche la decisione del governo di emanare questo decreto sull'incandidabilità delle persone, hanno posto un tetto a 2 anni per le persone condannate, però in via definitiva, anche se in realtà si è visto che salverebbero un po' tutti. Per esempio, un esempio su tutti, oggi scrive il Corriere della Sera, Marcello Dell'Utri, che ha una condanna definitiva a 2 anni e 3 mesi, ma ottenuta con patteggiamento, ecco, verrebbe escluso da questa incandidabilità, quindi sarebbe candidabile. La questione è anche il decreto anticorruzione, sì, perché sì, l'elemento centrale resta il voto di scambio, e il potrò sembrare fazioso, ma un rischio, la forza in questo momento di chi sta, del vecchio che avanza, cioè, no, insomma, del ritorno di Berlusconi, è anche, questa è soltanto una mia lettura ovviamente, è anche fondata sul fatto che una larga parte del voto in Italia lo puoi comprare. Se ci sono tante astensioni, significa che non è vero che l'indignazione ha portato a un voto o di protesta o cosciente, o comunque un voto che non vuoi più vendere. Ma sta dicendo che con Berlusconi sta dicendo che c'è questo rischio? Cioè, secondo me il rischio futuro c'è. Cioè, c'è il rischio assoluto che la macchina del voto di scambio torni. Cioè, che il voto con la crisi economica valga la metà. Perché se un voto lo compri a 50-80 euro facendo una spesa alla famiglia, perché i meccanismi sono questi, il rischio terribile è che oggi costi tutto meno, e quindi con un investimento minimo tu hai il voto di scambio. E nel decreto anticorruzione non ci sono strumenti per fermare questo tipo di voto di scambio, quindi l'emergenza secondo me è gigantesca, perché ci troviamo la democrazia condizionata un'altra volta. Invece l'idea di magistrati o ex magistrati che si candidano, c'è stato dei magistris a Napoli, adesso forse Antonio Ingroia, c'è questo movimento arancione, non si rischia il cosiddetto partito delle manette, come lo vede lei? Personalmente l'autorevolezza della magistratura, posto che ovviamente i magistrati individualmente possono fare quello che vogliono, è davvero una priorità, e il rischio anche di dare soltanto il sospetto che possa esserci, come dire, una forzatura politica, questo per quanto mi riguarda già basterebbe a creare molta più prudenza di quella che si ha. Cioè, il cittadino non deve avere neanche il sospetto che l'inquirente possa valutare secondo altri canoni il suo caso. Con altri canoni intendo dire che è ovvio che un magistrato può avere qualunque idea politica ed è libero cittadino, ma quando magistrato, come dire, deve essere altro il suo modo di agire e pensare, non condizionato. Quindi per quanto mi riguarda è sicuramente sono combattuto, nel senso che non è il magistrato in sé che in politica crea ansia, è il contrario, quanto piuttosto la voglia in questa fase, in questo momento, di mostrare una magistratura che è assolutamente al di sopra delle parti. Questo secondo me deve essere il pensiero costante. Negli ultimi 2 minuti, insomma, le chiedo, dal punto di vista personale, la sua vita è ancora totalmente blindata, ma la gente anche si chiede, ma quanto sono davvero concrete le minacce nei confronti di Saviano, anche se sono, si sa, condanne a morte che non hanno una scadenza? Ma adesso è iniziato il processo. alle persone considerate responsabili delle minacce, cioè il capo Camorra Francesco Bidognetti, il capo Camorra Antonio Iovine, tutti e due tra l'altro già in carcere per ergastolo, un processo che vede diversi di noi, non soltanto io, c'è anche Rosaria Cavacchione ed altri. E questo processo sulle minacce io spero tanto che possa servire a porre una specie di inizio della fine di questa mia condizione, che possa almeno non vedere quello che mi sembra purtroppo scritto, cioè fine pena mai. A me sembra che ci sia questo sul mio destino e voglio credere che sia diverso, che possa uscirne. Poi il meccanismo di odio che hanno i clan ovviamente non è un meccanismo semplice, nel senso che non è che allora hanno paura perché ho svelato chissà cosa, loro hanno paura perché la luce che è stata accesa, le persone che in questo momento stanno ascoltando e ne parleranno magari ai figli, agli amici, al bar, ovunque, questo loro hanno paura, che essere tema del giorno, essere tema sui giornali, sui media, tema di tutti, non tema di specialisti. È questo che loro vogliono far pagare. Allora io la ringrazio, magari non so, l'idea di poter andare nello stadio di San Paolo per festeggiare lo scudetto del Napoli potrebbe essere un magari, ma tutto vinciamo. Io da milanista glielo auguro, piuttosto che la Juve, meglio il Napoli. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie Roberto Saviano, grazie davvero per essere stato con noi qui in diretta Radio 24. Era Roberto Saviano, metteremo la registrazione ovviamente e il taglio sul nostro sito, quindi è tutto riascoltabile in podcast tra poco. Io do la linea a Oscar Giannino, che avrà l'arcivescovo di Milano, il cardinal Scola, ospite. L'appuntamento a lunedì. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.